Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Pillole di Consapevolezza Impariamo a Volerci Bene su Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini ed insieme a Francesca Romano e Franco Cesari faccio parte dell'associazione Energicamente. Nello specifico io mi occupo di consulenza di rimedi floreali per le persone e per gli animali, oltre ad essere un'educatrice cinofila ed un'operatrice Reiki. Nella puntata di oggi vorrei introdurvi nel meraviglioso mondo dei fiori di Bach, più noti a tutti come fiori di Bach, ma in realtà il dottor Edward Bach era inglese, quindi il loro vero nome e quello corretto sarebbe fiori di Bach. Per introdurvi dentro questo mondo vorrei leggervi un estratto di uno dei suoi libri. Noi siamo qui per acquisire esperienza e conoscenza ed apprenderemo ben poco se non affrontiamo la realtà senza cercare l'impossibile. Una tale esperienza può essere acquisita, non importa dove, e si possono scoprire i rimedi della natura e dell'umanità alla sua stessa stregua, se non meglio, sia in una piccola casa di campagna che nel caos e nell'agitazione di una città. Ma chi era quindi il dottor Bach? Era un bambino gracile e molto intuitivo. Amava la natura e sognava fin da piccolo di trovare una cura che alleviasse le pene degli esseri umani e degli animali. Nasce il 24 settembre del 1886 a Moseley e finita la scuola lavora per pochi anni in una fonderia di famiglie, ma gli orari fissi e il poter stare lontano dalla natura lo rendevano molto triste. Decide quindi nel 1906 di iscriversi a medicina a Birmingham e poi va a specializzarsi a Londra. Una volta trasferitosi a Londra, fino al 1930 rimarrà lì. Dopodiché abbandonerà la città per scoprire appunto i suoi rimedi floreali. Ma della vita del dottor Bach e della sua meravigliosa avventura parleremo più avanti quando vi parlerò dei rimedi che lui ha scoperto. Ma parliamo ora di che cosa sono i fiori di Bach e a che cosa servono. Quando ci sentiamo appagati, sereni e ottimisti, possiamo vivere al meglio la nostra vita, affrontando le difficoltà quotidiane con serenità e disponendo di maggiori risorse per noi stessi e per donare sostegno ad amici e familiari. Ma a volte gli eventi e le esperienze della vita sono tali da rendere necessario un aiuto per mantenere equilibrio e permetterci di andare avanti. Questo aiuto, appunto, arriva dai rimedi floreali del dottor Edward Bach. I fiori di Bach sono uno strumento semplice che ognuno di noi può imparare ad usare. Ci danno la possibilità di avere il controllo sulla nostra vita emozionale. Noi tutti possiamo essere in armonia con noi stessi e come le recenti scoperte scientifiche della psiconeuroimmunologia stanno dimostrando, basta questo per farci sentire meglio e più in salute. Ci sono 38 rimedi nel sistema dei fiori di Bach, 37 contenuti nelle singole boccette estratti da piante singole ed uno preparato con acque speciali delle sorgenti dei Grandes. Ciascun rimedio è relativo a un particolare stato emotivo, come paura, mancanza di fiducia, preoccupazione. Prendendo il rimedio si avrà il risultato di acquisire coraggio, mantenere la fiducia o aumentare la fiducia in noi stessi e calmare la mente preoccupata. I rimedi non funzionano come fanno le normali medicine smorzando i sintomi. Agiscono invece intensificando le nostre qualità positive. Lo stato negativo non viene eliminato, ma rimosso dall'aumento della quantità positiva corrispondente. Inoltre sono assolutamente sicuri, in quanto non hanno alcuna controindicazione, quindi si possono usare in qualsiasi periodo della nostra vita, per i neonati, per le donne incinta, per le persone della terza età e per tutti gli animali. In che modo i rimedi esplicano la loro azione? I fiori di Bach riequilibrano le nostre emozioni, si rivolgono solo esclusivamente a come noi reagiamo emotivamente alle vicissitudini, alle esperienze, ai problemi delle nostre giornate. Donano una grande serenità ed una pace, coraggio e forza, e aiutano a sentirci nel pieno delle nostre possibilità. Possono essere utili a fronte di una malattia, non dal punto di vista fisico, ma come sostegno dell'umore. La persona è vista come un individuo completo, dove le emozioni sono un punto cardine e non solo come corpo fisico con dei sintomi. Bisogna quindi analizzare lo stato emozionale e non i sintomi fisici. In base a questo si trovano infatti i rimedi adatti. Infatti i soggetti con identici problemi fisici resistono e vivono emozioni e sentimenti ben differenti l'uno dall'altro. I fiori di Bach non aiutano a reprimere gli atteggiamenti negativi, ma trasformano questi nel loro lato positivo. Prendiamo ad esempio la rabbia, un sentimento potente e distruttivo. I fiori di Bach equilibrano questo stato emotivo, trasformando questa forza rabbiosa in una forza utile e proficua che può essere usata per aiutare gli altri e non per dargli contro. Nelle prossime puntate vorrei parlarvi dei fiori di Bach e per come saranno divisi nelle loro varie categorie, quindi fiori per la paura, fiori per coloro che soffrono l'incertezza, fiori per l'insufficiente interesse per il presente, fiori per la solitudine, fiori per l'ipersensibilità alle influenze e alle idee, fiori per lo scoraggiamento e la disperazione, fiori per la preoccupazione eccessiva e il benessere degli altri. E non ultimo, e anche più famoso, il Rescue Remedy. Nell'augurarvi un buon fine settimana e un arrivederci alla prossima puntata, vi voglio lasciare come sempre i nostri riferimenti. Il nostro sito web è www.energica-mente.it, la nostra email è info@energica-mente.it, i numeri di telefono sono Elisa 339-3860-123, Francesca 340-23-45-340, Franco 329-8989-669. Ricordatevi anche della nostra pagina su Facebook e ci vediamo la prossima settimana sempre qui su Radio Big World. Ringrazio come sempre Davide e Giorgio per l'opportunità che ci hanno dato e vi voglio lasciare con una piccola frase sempre del pensiero del dottor Bach. Ciascuna delle erbe corrisponde a una qualità e il suo scopo è di fortificare quella qualità, in modo che la personalità possa superare quel difetto. Malattie del corpo è nient'altro che disarmonia fra l'anima e la mente. Se mettiamo a posto la nostra mente, il nostro corpo sarà presto guarito. Libera te stesso del 1931. Quindi, buon fine settimana a tutti, da Elisa Pasquini.